GR Europa. Buon pomeriggio da Gigi Donelli, ripartiamo dal lavoro, dall'occupazione femminile. Pensate, negli ultimi 35 anni il numero di donne occupate in Italia è aumentato da 6 a 9 milioni e mezzo, dunque un aumento del 50% cui non corrisponde un'analoga presenza ai vertici. Ieri, nel corso del forum di Valore D a Roma, di cui vi abbiamo parlato nel corso del nostro Radio Day, Anna Zattoni ci ricordava che il dato occupazionale oggi non aiuta ad avere talenti femminili ai vertici delle aziende. Allora, in quell'occasione il nostro Jacopo Mattano ha chiesto all'eurodeputata francese Sylvie Goulard se l'Europa sta facendo abbastanza. Non significa che non sarebbe necessario fare di più a livello europeo per il welfare, e le due cose non sono contraddittorie, perché per esempio sarebbe possibile avere un voucher finanziato dall'Unione Europea che si può utilizzare come complemento delle cose fatte nelle aziende, soprattutto nelle piccole imprese. A che punto siamo in Europa nel rapporto tra donne e lavoro e tra lavoro e leadership femminile? L'Europa è larga e non posso rispondere per tutti i paesi. La battaglia che abbiamo fatto l'anno scorso per la BCE era una battaglia anche molto simbolica, perché la cosa che mi disturba è quando vedo ministri dell'economia e delle finanze che chiedono alle imprese, per esempio, di avere quote rosa nei board, e loro, quando decidono, non sono neanche in grado di avere una persona femminile nel board della BCE. Questo mi sembra una cosa molto pericolosa. I cittadini europei non sono interessati ai meccanismi della macchina europea, vogliono risposte a domande semplici ma importanti. Così Viviane Reding, commissario europeo, intervenendo in Parlamento martedì a Bruxelles in un dibattito sulla crisi. Il rappresentante della regione Vallonia, Marc Bertrand, ha insistito sul fatto che le famiglie, anche nel ricco nord, fanno ormai fatica a pagare il mutuo, l'affitto, le scuole dei figli, e a loro volta non vogliono entrare nei meccanismi istituzionali. La parlamentare verde Isabelle Durand era presente per conto del Parlamento europeo. Ecco la sua sintesi al microfono di Euronet Plus Bruxelles. Dobbiamo ascoltare di più i cittadini, perché sono molto arrabbiati, dice la Durand. I cittadini europei sono arrabbiati, noi li dobbiamo ascoltare, dobbiamo affrontare i problemi con più modestia, altrimenti le posizioni delle istituzioni europee rischiano di apparire arroganti e allontanare la gente. Dobbiamo poi insistere nel ricordare l'insieme del progetto europeo. Non dobbiamo limitarci a parlare della crisi e degli sforzi che facciamo per risolverla. È tempo di creare condizioni per un vero dibattito, un dibattito europeo, e l'elezione del prossimo presidente della Commissione europea è un'occasione per mettere a confronto diversi candidati. E questa era, come vi ho detto, Isabelle Durand, quindi esponente del Parlamento europeo, parlamentare verde del Belgio. Bene, con questo abbiamo concluso il nostro aggiornamento. GR Europa torna venerdì a partire dalle 15:05 circa. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.